Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un Abuso al Giorno, la trasmissione che ormai da oltre un anno vi accompagna quotidianamente nel vostro percorso mattutino, magari mentre vi state preparando per accompagnare i figli a scuola o per andare al lavoro, e al ritorno in replica la sera alle 20:45. Allora, oggi di cosa parliamo? Parliamo di un tema molto caldo e molto attuale, vale a dire le consulenze delle pubbliche amministrazioni. Sappiamo che recentemente anche il ministro per la funzione pubblica Renato Brunetta, con un'opera che indipendentemente dal colore politico del governo, di cui non mi interessa assolutamente nulla, a mio giudizio ha fatto una cosa molto intelligente, mettendo in linea sul sito della funzione pubblica tutti i dati relativi alle consulenze per collaborazioni esterne per gli anni 2006-2007, dati appunto alle pubbliche amministrazioni in questo biennio. Tra l'altro una cosa soltanto parziale, perché migliaia di amministrazioni, contravvenendo ad un obbligo di legge, non hanno comunicato i dati delle proprie consulenze. Sappiamo che oramai dietro le consulenze, questo qui non lo dico io ma lo dicono gli esperti, si celano spesso anche le nuove mazzette, quelle che una volta erano mazzette per appalti di servizi, di opere pubbliche o di beni, e che erano classicamente date sotto forma appunto di banconote e spesso venivano poi anche denunciate e scoperte. Oggi si trovano dei canali alternativi e queste mazzette spesso si danno proprio attraverso le consulenze. Mazzette oppure sono semplicemente degli scambi e dei favori clientelari. Ciò premesso, il caso di cui oggi ci andiamo ad occupare non voglio farlo rientrare in questa categoria, ma voglio sicuramente parlarne con voi, cari radioascoltatori. E partiamo da cosa? Da una interrogazione di un consigliere in Regione Emilia-Romagna, quindi un consigliere regionale della Lega Nord, Roberto Corradi. Roberto Corradi alcune settimane fa, alcuni mesi fa, anzi, ma la risposta dell'assessorato è arrivata soltanto pochi giorni fa, ha presentato un'interrogazione in cui chiedeva conto di quello che a suo giudizio era uno spreco, tanto che il Resto del Carlino ha titolato con una buona evidenza: sul tinteggio delle pareti consulto da 112.000 euro. Ebbene, stiamo parlando proprio di questo, di una denuncia fatta da questo consigliere, per il quale il consulto, vale a dire la consulenza per decidere se le pareti del grande complesso ospedaliera di Sant'Orsola di Bologna dovesse essere di un colore piuttosto che di un altro, ebbene questo consulto è costato 112.000 euro, una cosa che se fosse vero sarebbe palesemente eccessiva e sicuramente deprecabile. Ma io do il buongiorno e il benvenuto al consigliere Corradi, al quale lascerei la parola. Buongiorno Corradi. Buongiorno, faccio alcune precisazioni, anche se la ringrazio per l'esposizione che è assolutamente compiuta ed esaustiva. Prego, faccia pure tutte le precisazioni, siamo qui per questo. Certo, sostanzialmente io contestavo, o comunque mettevo in evidenza con questo atto ispettivo, che è un'interrogazione per i telespettatori e per i radioascoltatori, è uno strumento che consente ai consiglieri di indagare su certi fenomeni che riguardano l'ente nel quale sono stati eletti come rappresentanti dei cittadini, perché a mio giudizio appunto era un po' abnorme questa consulenza dell'Istituto Sant'Orsola Malpighi di Bologna, quindi di un'azienda pubblica regionale, certo, la quale aveva stanziato 112.000 euro di consulenza nei confronti di un architetto al fine, nell'ambito di un progetto di cosiddetto soft quality, quindi di miglioramenti estetici, quindi suggerimenti su abbellimenti estetici rispetto alla struttura ospedaliera. Io ritenevo, come ho evidenziato, che a mio giudizio le somme destinate alla sanità dovessero essere spese con criteri più attenti alle esigenze sanitarie dei cittadini, nell'ambito dei quali ci può anche stare un miglioramento estetico delle strutture, ma spendere questi soldi per consulenze mi sembrava un po' eccessivo, anche perché il progetto era stato affidato a un dipendente, quindi già a uno stipendiato della regione. La necessità di dover affiancare a questo dipendente anche un consulente esterno a questa cifra non di poco conto mi sembrava francamente molto eccessivo. Ecco, lei ha fatto bene a mettere i puntini sulle i e soprattutto dire che in un primo momento appunto era stato individuato un soggetto all'interno di questa amministrazione pubblica, vale a dire il Policlinico Sant'Orsola Malpighi, ma poi in realtà, diciamo, la consulenza è stata anche data all'esterno. Ora io devo correttamente dire che noi abbiamo cercato di metterci in contatto con l'assessorato per le politiche alla salute della Regione Emilia-Romagna e segnatamente con il suo assessore Giovanni Bissoni, ma devo dire non c'è stato nulla da fare, al punto che abbiamo ricevuto la risposta dell'assessorato al consigliere Corradi proprio da quest'ultimo. Obiettivamente ci aspettavamo un'opera di trasparenza maggiore da parte dell'assessorato, ma tant'è, ognuno fa quel che può. Nella risposta dell'assessorato che io ho sotto mano, e la risposta all'interrogazione 3862, l'assessore in buona sostanza dice: il policlinico è molto ampio, sapete benissimo cari consiglieri che noi volevamo migliorare il comfort abitativo dei degenti, migliorare le strutture, eccetera eccetera eccetera. Alla fine qual è il succo di questa risposta? Il succo è che il consulente esterno che ha prestato oltre 90 giornate presso l'ospedale, più quello che ha prestato nel proprio studio, ha preso 46.000 euro all'anno con un costo orario di 56,81 euro, a cui si aggiungono le voci spese dell'assistente 10.000 euro e il rimborso spese 6.000 euro. Allora, visto questa risposta che è molto burocratica, ma io non emetto in dubbio né la legittimità né la correttezza, ma alla luce di questa risposta dell'assessore, caro Corradi, lei che cosa ha da obiettare? Innanzitutto sono, quanto relativo alle giornate lavorative, non porrò altro che prenderne atto, ma sono dichiarazioni di parte che nessuno può verificare, nel senso che non mi risulta che sia stato inserito un meccanismo di controllo delle presenze o delle giornate di lavoro prestate da questo consulente. Quindi prendo atto della dichiarazione dell'assessore, ma per me rimane una mera dichiarazione di parte. Peraltro ribadisco che a mio giudizio queste somme sarebbero state meglio spese nella misura in cui fossero state utilizzate per procedere effettivamente alle attività di intervento sugli edifici. Qui siamo nell'ambito di una consulenza finalizzata esclusivamente a indicare delle linee rispetto a ciò che poi, che effettivamente le imprese incaricate di fare eventuali lavori dovrebbero seguire in un'ottica di abbellimento estetico. Benissimo, consigliere, io la fermo qui perché abbiamo capito che lei rimane della sua opinione, vale a dire che questi soldi sono stati spesi per capire se era meglio il verde pisello piuttosto che il rosa antico, e tutto sommato effettivamente se così fosse credo che ad un paziente gliene possa fregare di meno del colore dell'edificio esterno. Ed allora noi andiamo a cercare un giudizio terzo, e quanto di più terzo c'è in Italia oggi è proprio la Corte dei Conti, chiamata a giudicare sulla regolarità contabile e sulle spese delle pubbliche amministrazioni. Per questo io do il buongiorno e il benvenuto al consigliere della Corte dei Conti Tommaso Miele, che è già stato altre volte nostro ospite. Buongiorno Miele. Buongiorno, buongiorno. Allora, lei ha avuto tutti gli incartamenti, sa l'accusa e la difesa, la conosce bene, voglio un suo giudizio super partes. Sì, chiaramente, ecco, io comunque ho visto sicuramente, ecco, il riferimento diciamo ai fatti dell'interrogazione. La mia non è una sentenza specifica, ecco, io posso riferire soltanto quello che è l'orientamento della giurisprudenza della Corte dei Conti e anche i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti con riferimento alla possibilità per gli enti pubblici e le aziende pubbliche di far ricorso all'affidamento di incarichi a professionisti esterni alla struttura dell'ente. Certo. Peraltro in questo caso, ecco, mi si dice che inizialmente l'incarico era già stato affidato ad un dipendente della stessa azienda sanitaria, poi si è fatto ricorso ad un consulente esterno. In linea di massima devo dire che sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti può affermarsi che le spese per lo svolgimento di incarichi esterni, visto che si tratta comunque di risorse pubbliche, possono ritenersi legittime o comunque giustificate soltanto in presenza di questa ipotesi. Nell'ipotesi in cui non sia possibile per un qualsiasi motivo utilizzare personale in servizio nell'ente pubblico, nella struttura pubblica, oppure allorché non sia presente all'interno della stessa struttura organizzativa dell'ente, dell'azienda, personale qualitativamente o quantitativamente idoneo o sufficiente allo svolgimento dei compiti e delle attività particolari da svolgere nel caso specifico, o comunque allorché la realizzazione del lavoro o dell'elaborato, in questo caso ecco del parere sulla tinteggiatura, ritinteggiatura, dell'elaborato quindi commissionato a professionisti esterni, non rientri nelle competenze specifiche del personale dipendente. Ecco, Miele, lei è stato chiarissimo, certamente non può emettere né un giudizio né una sentenza. Mi prendo io la responsabilità di dire che alla luce di quanto lei ha letto, di quanto ci ha dichiarato il consigliere e anche della risposta comunque esaustiva per sua parte dell'assessore Bissoni, resta veramente forte il dubbio se non ci fosse stata la possibilità di trovare all'interno della struttura dell'ospedale di questa amministrazione qualcuno che potesse effettivamente decidere anche in ordine alla tonalità dei colori dell'ospedale. Lascio ancora le porte aperte all'assessorato, lo dico anche al dottor Corradi, per tornare su questo tema, perché il tema delle consulenze sentitissimo ormai dagli italiani stufi dello spreco delle risorse pubbliche. Ringrazio il consigliere della Corte dei Conti Tommaso Miele, appunto il consigliere regionale in Emilia Romagna Roberto Corradi. Roberto Gallullo ringrazia regia Filippo Aureggi e in studio Laura Faggin, e vi dà appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.